Ehi, questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Buongiorno e buona settimana a tutti, sono Marina Macelloni, del Sole 24 Ore, leggerò con voi i giornali questa mattina e per tutta la settimana. Oggi sui giornali in edicola si trova ancora la guerra a Gaza, la giustizia e le prove e tentativi di accordo sulle riforme, ancora la questione Alitalia alla vigilia della partenza della nuova compagnia che dovrebbe partire domani. Tutti i giornali riprendono con grande evidenza l'intervista che ha rilasciato ieri il sindaco di Milano Letizia Moratti a Lucia Annunziata alla RAI, e intervista nella quale il sindaco ha attaccato esplicitamente il governo per l'accordo fatto con Air France. Molto spazio anche al ministro Brunetta e al suo nuovo attacco agli statali. Vediamo adesso i titoli principali dei giornali. Il Corriere della Sera apre con la questione della RAI. Vigilanza RAI, prima intesa, è il titolo di apertura del quotidiano di Via Solferino. PDL e PD sostituire Villari, Schifani soluzione vicina. Dialogo dopo la svolta del centrodestra, Berlusconi e la giustizia riforma anche da soli. In dettaglio centrale il Corriere riprende invece la questione all'Italia. La Moratti attacca il governo per l'Expo e Malpensa, è il titolo del taglio centrale. Il sindaco andrebbe difeso l'interesse del paese. La fotografia del Corriere della Sera di oggi è dedicata al calcio, Juve più vicina all'Inter, meno 4 punti, pari Roma e Milan, una magia di Del Pietro è il titolo. In grande evidenza sul giornale anche la questione medio orientale, alla quale è dedicato l'editoriale di Angelo Panebianco, che si intitola Un conflitto nuovo, che poi leggeremo. Il titolo è Olmert, quasi raggiunti gli obiettivi di Israele, scontri duri a Gaza, riservisti in battaglia. Obama su Guantanamo per ora non si chiude, questa è un'altra cosa che vedremo più tardi. Infine il Corriere lancia l'inserto Corriere Economia, il cui titolo principale è 2009, due giorni in più di tasse, lavoreremo per il fisco fino al 23 giugno. La Repubblica invece apre con la giustizia, giustizia diktat di Berlusconi, sulla riforma possiamo fare da soli se Veltroni non ci sta, sono le parole del Premier riprese nel titolo di apertura di Repubblica, parla Casini, smantellare PD e PDL pronti a creare una nuova formazione, questa è l'intervista politica di giornata che poi leggeremo, e arriva il Grande Fratello per tutti i processi e le indagini, come viene richiamata questa parte del giornale. Diktat di Berlusconi sulla giustizia, non so se la speranza di una legge condivisa possa trasformarsi in realtà, ma sono sicuro che stavolta la riforma della giustizia la faremo, con la sinistra se possibile, da soli, se la sinistra non vorrà partecipare. Il piano di riforma lo abbiamo chiaro. Queste sono le parole di Berlusconi, riprese nel richiamo di apertura di Repubblica. Intanto è pronto a partire il progetto del governo per una sorta di Grande Fratello, per tutti i processi e le indagini. E sul tema delle alleanze Casini dice smantellare PD e PDL per creare una nuova formazione. Su Repubblica richiamata anche all'Italia, parte oggi la CAI targata Air France, su Malpensa scontro Moratti Premier, e le parole del ministro Brunetta. Brunetta, gli statali si vergognano di dire il proprio lavoro ai loro figli, l'ultima provocazione del ministro, la CGIL è il mio nemico, dice solo no. La fotografia della prima pagina di Repubblica invece è dedicata agli scontri a Gaza, morti, fame e paura, ecco l'inferno di Gaza, un reportage, polemiche che in Italia per le manifestazioni contro Israele. In evidenza in prima pagina anche una storia che poi se abbiamo tempo leggeremo, che viene da Londra, non comprate le TV al plasma, crociata ambientalista del governo inglese, inquinano come un SUV. La Stampa apre su Alitalia, Alitalia l'ultimo ricatto, addio alla compagnia pubblica, ma la trattativa è appesa a un filo. Berlusconi, tempo esaurito per Lufthansa. Domani si parte, ultimatum dei sindacati, rispettate i patti o blocchiamo tutto. Nelle pagine all'interno poi vedremo un'intervista al presidente dell'antitrust Catricalà che dice: fermeremo ogni aumento ingiustificato, vigileremo, massima attenzione sul Milano-Fiumicino. La questione di Gaza è invece richiamata con un servizio che si intitola Tra i musulmani d'Italia, Gaza è il nostro cuore, il taglio centrale del giornale, e poi un richiamo anche su Obama: Obama non manterrò tutte le promesse, prove di Casa Bianca. Il Sole 24 Ore del lunedì, che come sapete è un settimanale, apre invece sulle pensioni. Pensioni, allarme sulle casse. Professionisti al via l'esame dei bilanci tecnici che devono dimostrare la sostenibilità delle gestioni, molte riforme in cantiere, ma pochi i passaggi al sistema contributivo. E un'inchiesta sul gradimento ai sindaci che governano le nostre città, le pagelle dei sindaci vincono Chiamparino, Tosi e Scopellitti. Alla Iervolino il consenso più basso dei cittadini. Il giornale ha un'apertura invece completamente differente dagli altri. Il titolo è: ecco 4.000 posti per chi cerca lavoro. Nonostante la crisi, ci sono aziende che faticano a trovare personale e disoccupati che rifiutano l'impiego. Agenti, ingegneri, infermieri, tecnici, geometri, vi diamo i numeri di telefono per un mestiere sicuro. Con grande evidenza nel taglio centrale del giornale anche l'inchiesta su Di Pietro, le manovre spericolate su Di Pietro sulle autostrade, così l'ex ministro ha piazzato i suoi uomini nelle commissioni per gli appalti. E poi a centro pagina viene richiamato il discorso del premier a Roccaraso ieri: cambieremo la giustizia anche da soli, Berlusconi avverte, stavolta la riforma si fa, abbiamo i numeri della maggioranza. L'Unità, chi si vergogna alzi la mano, è il titolo di apertura del giornale, si riferisce a Brunetta. È tornato Brunetta, l'insegnante o l'impiegato del catasto si vergognano di dire ai figli cosa fanno, attacco alla CGIL. Gli altri due richiami di copertina sono Gaza, i tanchi in città, Olmert è quasi finita, e il giallo del Salento, delitto alla diossina, un'intervista al regista Wim Spear che denuncia troppi morti per i veleni nascosti sottoterra. Nella prima pagina dell'Unità, richiamato nel fascione rosso, le parole del ministro Roberto Maroni: questo è un emendamento che tutta la maggioranza ha scritto, sostenuto e votato. Sono francamente un po' sorpreso delle polemiche. Volevamo fare uno sconto agli immigrati. Hanno bocciato i 50 euro, torneremo ai 200. Si riferisce alla tassa sul permesso di soggiorno che la Lega voleva introdurre, che è stata bloccata. Il Giorno, Brunetta sferza i vergognoni, gli statali siano orgogliosi del lavoro come alla Ferrari, non lo nascondano. Dopo la bufera sui fannulloni, il ministro apre un nuovo fronte, l'ira di sindacati e opposizioni chieda scusa. Richiamati sul Giorno anche all'Italia, Lufthansa fuori gioco, Moratti troppa fretta, e il calcio, Milan pato super ma Vucinic risponde. Infine, il Secolo XIX ritorna sul tema della giustizia. Giustizia riforma con o senza il PD, Berlusconi frena, l'opposizione, governo diviso. Sul Secolo XIX è richiamata con la fotografia a centropagina, molto in evidenza, la notizia di cronaca di ieri: Bari, esplosione per una fuga di gas, feriti sotto le macerie. Crolla una palazzina, tre morti. Infine vi leggo il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. Ora la Juve è lì, corsa scudetto, la squadra di Ranieri recupera sui nerazzurri battendo il Siena, Del Piero colpisce ancora, i bianconeri a meno 4 dall'Inter. Richiamato in alto sulla Gazzetta anche la partita Roma-Milan, Pato stella tra le stelle, ma Vucinic non ci sta, la Roma scappa, il Milan la supera, poi si fa riprendere 2-2. Il posticipo, Beckham in campo dall'inizio, ci resta 90 minuti. E ci fermiamo qui per qualche minuto per le notizie. È La Stampa, Belletta, La Stampa. Di nuovo buongiorno a tutti, sono Marina Macelloni, stiamo leggendo insieme i giornali di questa mattina. Torniamo sulla questione, riprendiamo il filo con la questione Alitalia dal Corriere della Sera, pagina 7. Viene richiamata l'intervista di Letizia Moratti di ieri. Moratti, più tempo per Malpensa e Tremonti sottovaluta l'Expo. Berlusconi, Lufthansa è tardi, il sindaco, ci sarà una nuova offerta. Questo è proprio il punto centrale della polemica. Letizia Moratti ha chiesto un po' di tempo per consentire a Lufthansa di fare la sua offerta. C'è anche un retroscena firmato da Antonella Baccaro proprio sulla eventuale offerta di Lufthansa alla CAI. Il titolo è: Colaninno aspetta un fax tedesco, il consiglio della cordata italiana oggi per la scelta del partner. Cosa dice l'articolo? Dicono che potrebbe arrivare un fax, dicono, e dicono anche che non servirà a molto, che ormai è tutto concluso. Tra le brume della Magliana ieri sera si aggiravano ancora il fantasma di Lufthansa e l'ipotesi che il vettore tedesco possa ancora tentare il colpo di scena per far saltare l'accordo tra l'Italia e Air France KLM, che oggi alle 13 dovrebbe essere ratificato dal CDA italiano. La prospettiva potrebbe essere stata comunicata anche al premier Silvio Berlusconi, che ieri a Roccaraso ha sentito il bisogno di precisare: non credo che ci siano più i tempi per l'inserimento di Lufthansa in una trattativa che è molto avanzata fra l'Italia e Air France. Questo per quanto riguarda la cronaca. Sullo stesso argomento c'è però un'intervista abbastanza interessante al presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, sulla Stampa, pagina 3. Il titolo è: non tollereremo aumenti ingiustificati. L'Antitrust, stiamo vigilando sulle tariffe. Colaninno e C, attenti, sulle tariffe non si scherza, è l'attacco dell'intervista. La legge avrà anche congelato per 3 anni i poteri dell'antitrust, ma il garante del mercato non intende certo abbassare la guardia e a poche ore dal decollo della nuova compagnia fissa i suoi paletti. Non tollereremo nessun aumento ingiustificato dei prezzi e nessun abuso di posizione dominante, avverte Antonio Catricalà. Del resto, se fosse stato per lui, dal punto di vista tecnico, l'aggregazione all'Italia Air One non poteva essere autorizzata. Già nel 2006, ricorda, in un periodo quindi assolutamente non sospetto, proprio in un'intervista alla Stampa dissi chiaramente che né l'autorità nazionale né quella europea avrebbero potuto avallare la fusione Air One all'Italia di cui si parlava all'epoca, e spiegavo che, come prevedeva già la legge, l'unica strada che il governo poteva percorrere era quella di assumersi la responsabilità politica di autorizzare un'aggregazione del genere, quello che poi è di fatto avvenuto. L'intervistatore, che è Paolo Baroni, chiede a un certo punto a Catricalà: resta il fatto che i consumatori e utenti sono preoccupati, ma noi non abbiamo perso i nostri poteri, risponde il presidente dell'antitrust, anzi abbiamo avuto la possibilità di dettare norme comportamentali in materia di tariffe, potere che prima non avevamo, e poi manteniamo sempre la vigilanza su eventuali abusi di posizione dominante, a cominciare proprio dall'utilizzo di prezzi eccessivamente onerosi e non giustificati. E questo da quando, gli chiede l'intervistatore? Appena inizia a operare la nuova società, ma noi stiamo già tenendo sotto controllo tutti i listini, perché sappiamo che la formazione di questi prezzi dipende sia dalla qualità dei posti che dalla tempistica con cui i biglietti vengono acquistati. Insomma, il presidente dell'antitrust conferma di avere i poteri per controllare quello che farà la nuova compagnia. In particolare, cosa avete prescritto alla nuova Alitalia? Gli chiede Paolo Baroni sulla Stampa. La CAI dovrà applicare la tariffa economy più bassa stabilita fino ad ora da Alitalia ed Air One al 10% di tutti i posti su tutti i voli. Oltre non potevamo andare perché noi non siamo il comitato prezzi. Ecco, questo per quanto riguarda Alitalia. Invece la questione giustizia la prendiamo da Repubblica, che gli dedica moltissimo spazio, e un approfondimento di Giuseppe D'Avanzo. Il titolo nelle pagine interne è: giustizia, ultimatum di Berlusconi, riforma da soli se il PD non ci sta. Invece D'Avanzo si sofferma con un articolo che parte dalla prima e segue poi a pagina 3, su questa questione del Grande Fratello per i processi e le indagini. Ci sono molti modi per dare avvio a una riforma della giustizia, è l'attacco dell'articolo. La si può discutere in pubblico, come accade ancora in questi giorni, o inaugurare in silenzio nuovi possibili controlli del governo sull'ordine giudiziario, a dispetto di ogni autonomia e indipendenza togata. Si manipola qualche inciso nei codici, si sposta una virgola di un articolo di legge e il pubblico ministero può perdere la direzione delle indagini e della polizia giudiziaria, lo si è già visto. O in nome di una necessaria rivoluzione tecnologica si possono sottrarre addirittura la proprietà e le informazioni dei fascicoli processuali al pubblico ministero e al giudice delle indagini preliminari. È quel che può avvenire nei prossimi giorni, quando entrerà nella sua fase di sperimentazione il protocollo d'intesa firmato il 26 novembre 2008 tra il ministro per l'innovazione Renato Brunetta e della giustizia Angelino Alfano. Questo spiega poi lungamente a pagina 3 d'avanzo. Invece volevo leggervi l'intervista che Repubblica pubblica a pagina 4 al leader dell'UDC Casini. L'intervista si intitola «Finti partiti come PD e PDL non servono, è necessario creare una nuova forza». Casini, con Rutelli e Letta ci sono affinità, ma nessuno ha fretta. Cosa dice Casini? Noi siamo impegnati non solo a superare l'UDC, ma a creare contenitori nuovi che cancellino lo schema bipartitico, una forzatura sia a destra sia a sinistra. Pier Ferdinando Casini è appena tornato da una vacanza a Miami, dice di aver letto solo sui giornali l'invito di Lorenzo Cesa, il segretario del suo partito, rivolto a Rutelli e Letta per un'adesione alla Costituente di centro, un intervento a gamba tesa nei travagli del Partito Democratico che Veltroni ha giudicato ineducato. Le battute possono essere più o meno felici, dice Casini a Goffredo De Marchis che lo intervista, ma il ragionamento resta. Le case attuali rispondono alla crisi del sistema? Secondo noi no, e mi sembra che tanti altri la pensino allo stesso modo. Casini poi parla anche di altri temi, tra cui la questione all'Italia. Cominciamo dall'Alitalia, gli chiede l'intervistatore. Anche lei vede l'operazione Air France come una svendita? Direi di più, è uno spot elettorale che agli italiani costerà un sacco di soldi. Sgombrato il campo da pregiudiziali anti-berlusconiane, siamo di fronte a una vicenda nata male e finita peggio, con i debiti caricati sulle spalle dei cittadini e capitani coraggiosi che tutto meritano tranne il pubblico elogio. Hanno messo su una legittima manovra imprenditoriale, ma non pretendano un grazie dal paese. Invece sul tema della giustizia la domanda è: condivide la posizione di Fini sulla giustizia? È una posizione equilibrata, risponde Casini, come equilibrate sono le parole di Alfano. Serve una convergenza ampia per fare una riforma. Riforma necessaria, aggiungo, se è vero che il Presidente della Repubblica deve intervenire sul rapporto tra procure, se un democratico come Mancino lancia il suo grido di allarme, se interviene un giurista come Vassalli o un politico capace come Violante. Sullo sfondo però c'è anche il contrasto tra il Presidente della Camera e il Premier, gli ricorda l'intervistatore. Casini risponde: un film già visto che conosco molto bene. Berlusconi si deve rassegnare, un Presidente della Camera esprime posizioni che hanno valenza diversa da quelle del governo. Chi rappresenta un ruolo istituzionale deve farsi carico delle ragioni dell'opposizione, altrimenti cade nel ridicolo. Il problema non era Casini ieri, come non lo è Fini oggi. Ricorda in questo modo gli scontri che ha avuto lui da Presidente della Camera con il Premier. Ritornando invece alla offerta che Leonardo Cesa ha fatto a Rutelli e Letta di aderire alla Costituente di centro, Casini dice: ho letto anch'io sui giornali la dichiarazione di Cesa, non ero informato, ma al netto delle battute il ragionamento mi sembra chiaro. Gli assetti politici attuali, questo bipartitismo forzoso, rispondono a una scelta definitiva definitiva o no? Io penso di no, non è uno schema utile all'Italia e su questo siamo convinti serva una riflessione serena e seria. Non significa io vengo da te e tu vieni da me, la battuta può essere equivocata, ma la sostanza politica rimane lì come un macigno. Avete offerto a Letta la leadership di questo centro? Noi non offriamo niente perché rispettiamo tutti. Lavoriamo al superamento dell'UDC e alla creazione di una novità politica. Questa è l'intervista politica più importante della giornata. Passiamo invece adesso al tema esteri, al tema di giornata di esteri, ancora la guerra in Medio Oriente. E come vi dicevo prima, il Corriere della Sera dedica a questo tema un titolo importante in prima: Olmert, quasi raggiunti gli obiettivi di Israele, e l'editoriale di Angelo Panebianco che si intitola Un conflitto nuovo. Dice Panebianco: chiunque abbia, se non altro per ragioni anagrafiche, un passato è portato a leggere i conflitti di oggi alla luce degli schemi mentali di ieri. Per decenni il conflitto israeliano-palestinese venne interpretato in Occidente con gli schemi della guerra fredda. A lungo, dopo la rottura delle relazioni diplomatiche fra l'URSS e Israele, quel conflitto fu parte, pur con le sue peculiarità, del confronto politico e militare tra mondo occidentale e mondo sovietico. Per tutti coloro che in Europa occidentale simpatizzavano per l'URSS e per la lotta dei comunisti a favore dell'emancipazione del terzo mondo, Israele era un avamposto dell'imperialismo americano. Prosegue poi Panebianco dicendo: sono due i fatti nuovi che hanno determinato un cambiamento qualitativo del conflitto israeliano-palestinese e che tanti sembrano voler rimuovere. In primo luogo, questo è l'aspetto in cui si sofferma di più, l'irruzione della religione e più precisamente dell'Islam politico nel conflitto. Certo, il conflitto israeliano-palestinese continua ad essere anche ciò che è sempre stato, uno scontro fra due popoli per il dominio territoriale, ma da tempo non è più soltanto questo. Il rafforzamento di movimenti come Hamas in Palestina e Hezbollah in Libano ha cambiato radicalmente il quadro, come il fatto che quei movimenti siano interni a una galassia islamista che in ogni angolo del mondo si riconosce nelle stesse parole d'ordine e afferma la propria identità contro gli stessi nemici. Questa è la parte principale dell'articolo. Volevo leggervi anche invece a pagina 8, scusate, pagina 11, la parte che riguarda invece il cambio alla Casa Bianca. Obama più cauto su Guantanamo, per ora non chiude. Queste sono le parole di ieri del presidente eletto, che tra qualche giorno si insedierà alla Casa Bianca. Il neoeletto: nuovo approccio con l'Iran e non esclude un'inchiesta sull'era Bush. Abbiamo un gruppo di persone da tempo agli arresti, molte delle quali potrebbero essere altamente pericolose, dice Obama. La chiusura della prigione speciale di Guantanamo, uno degli atti più simbolici e attesi della nuova amministrazione di Barack Obama, non avverrà nei primi 100 giorni della sua presidenza. Lo ha ammesso in un'intervista alla ABC il presidente eletto, secondo il quale è più difficile di quanto molta gente comprenda sbarazzarsi della controversa struttura creata dall'amministrazione Bush a Cuba per i presunti terroristi islamici dopo gli attentati dell'11 settembre. È importante questa missione perché una delle prime cose che aveva detto Obama subito dopo l'elezione era appunto che avrebbe cercato di chiudere la prigione di Guantanamo. Ecco, il Corriere della Sera poi apre il giornale, come abbiamo visto prima, su un tema che gli altri giornali trattano in maniera meno importante, ed è quello della vigilanza RAI. Prima intesa, PDL e PD sostituire Villari, Schifani soluzione vicina. Ieri il Corriere aveva pubblicato la lettera dei quattro capigruppo del PDL, lettera nella quale si diceva: finché Villari non si dimette lasciamo la commissione vigilanza. Che cosa scrive il Corriere? Riccardo Villari è rimasto solo. Dopo la lettera dei quattro capigruppo del PDL pubblicata dal Corriere di ieri, maggioranza e opposizione sono compatte nel chiedere le dimissioni del presidente della vigilanza RAI. La decisione dei capigruppo PDL, ha detto il presidente del Senato Schifani, introduce utili elementi per una soluzione politica. Sul fronte della riforma della giustizia, questa è la parte che riguarda la giustizia, Ecco, e, su questo tema c'è un'intervista sul Corriere della Sera a Gentiloni, l'esponente del PD. Dal PDL gesto che sana una ferita, Gentiloni, era ora, ricominciamo da Zavoli. È un gesto importante, una buona iniziativa, è la premessa base per sanare la ferita che si era aperta, dice Gentiloni nell'intervista pubblicata sul Corriere della Sera a cura di Paola Di Caro, ma è anche una mossa che può sbloccare, migliorare, rendere più fluidi i rapporti tra maggioranza e opposizione e consentire, se non un'intesa sicura sui vari temi in agenda, almeno un confronto non pregiudiziale in Parlamento tra le forze politiche sulle cose che contano per il Paese, a partire dalla crisi economica. E questo, ed è certamente positivo, il giudizio di Paolo Gentiloni, ex ministro delle comunicazioni, oggi responsabile informazione del PD, sulla decisione del centrodestra di disertare la commissione di vigilanza RAI fino a quando il presidente Villari non si sarà dimesso. Allora il caso è risolto, il PD non ricorrerà più alla Giunta per il regolamento per evocare la nomina del Presidente? Beh, dopo questa buona iniziativa del PDL, sviluppo più logico degli appelli dei Presidenti delle Camere e dell'iniziativa più recente del Presidente del Senato, credo proprio che sarà inevitabile per il Presidente, cioè Villari, prendere atto della situazione e risolvere la questione. Ci fermiamo qualche minuto ancora, ci risentiamo tra pochissimo. La stampa belletta, la stampa. Eccoci di nuovo con la lettura dei giornali, l'ultima parte di questa rassegna stampa. Riprendiamo dalla vicenda di Brunetta. Il ministro per la funzione pubblica ieri ha rilanciato il suo attacco agli statali, lo prendiamo da Repubblica. Brunetta, CGIL il mio grande nemico, dice solo no. Gli statali si vergognano del proprio lavoro. L'orgoglio tornerà con carota e bastone. Queste sono le parole del ministro secondo il titolo di Repubblica, un colpo alla CGIL, considerata il suo grande nemico, e uno alla dignità dei dipendenti pubblici. Il ministro Brunetta riparte all'attacco degli statali, si vergognano di dire ai figli che mestiere fanno, commenta, ma a ridare credibilità e orgoglio alla categoria ci penserà lui, promette, usando il bastone e la carota. Oggi, secondo il titolare della funzione pubblica, se uno fa il professore, il burocrate, l'impiegato al catasto, si vergogna di dire quello che fa. Se invece dice al figlio faccio il tornitore alla Ferrari, lo dice con il sorriso, con orgoglio e dignità. Queste sono le parole del ministro Brunetta riprese ieri su Repubblica. L'articolo di cronaca è accompagnato da un'intervista a Carlo Podda, segretario della funzione pubblica della CGIL, il cui titolo è paranoico, ogni volta che parla aumentano i nostri iscritti. Cosa dice Carlo Podda? Il nemico dunque per eccellenza, dice Repubblica. Come si trova in questo ruolo di nemico? Non mi piace. Da quando l'opinione pubblica ha smesso di abboccare ai suoi annunci miracolosi, Brunetta è passato dalla megalomania alla paranoia. Se ci fossimo permessi di usare il termine nemico nei suoi confronti, ci avrebbero accusato di attentare alla sua sicurezza. Lui confonde il termine avversario con nemico, dice che della CGIL non gliene importa nulla, poi chiede scusa e ricomincia. A guardar bene, in questa follia un vantaggio c'è: più parla, più gli iscritti aumentano. Dite sempre no, gli chiede l'intervistatrice. Abbiamo detto sì alla lotta all'inefficienza, diciamo tutti i no che servono a difendere i lavoratori e rivendichiamo il diritto di farlo. È vero che gli statali si vergognano? Di cosa? Del fatto che fanno i turni di notte negli ospedali per 1.200 euro, a differenza di alcuni appartenenti al ceto del ministro, non sono indagati dalla magistratura. Forse loro si vergogneranno, noi no. Questa è l'intervista al leader della CGIL che risponde a Brunetta. Volevo a questo punto riprendere invece il giornale che ha questa inchiesta sulle manovre spericolate di Di Pietro sulle autostrade, così l'ex ministro ha piazzato i suoi uomini nelle commissioni per gli appalti. Da settimane questo quotidiano incalza il deputato Antonio Di Pietro, leader padrone dell'Italia dei Valori, con una serie di domande sul suo patrimonio immobiliare, sulla gestione privatistica dei fondi pubblici destinati al suo partito, su comportamenti non precisamente commendevoli di alcuni suoi deputati imputati sui rapporti apparentemente non troppo limpidi tra suo figlio Cristiano e il funzionario di Pietrista Mautone, sul misterioso modo inquietante, lo definisce la direzione investigativa antimafia, in cui è venuto a conoscenza che lo stesso Mautone era sottoposto a indagine, eccetera, eccetera, eccetera. L'inchiesta si estende su due pagine, pagina 2 e pagina 3, l'Italia dei favori è il titolo, le manovre spericolate di Tonino in autostrada, così piazzava gli amici, da ministro mise Mautone in un ruolo chiave per gli appalti, la consulenza d'oro del PM che archiviò le accuse a suo carico. L'inchiesta è molto lunga e prosegue con un articolo di Massimo De Manzoni che si intitola «Di Pietro adesso trovi il coraggio di rispondere alle nostre domande». Ora che anche Libero, Economist e Corriere lo incalzano, da chiarimenti però parziali, ma i quesiti del giornale continua a replicare con insulti e minacce. Riprendo invece il Sole 24 Ore del lunedì per approfondire appena il titolo dell'inchiesta di apertura sulle pensioni, pensioni allarme sulle casse, scatta l'allerta sulla sostenibilità delle pensioni dei professionisti, scrive il Sole 24 Ore. L'obbligo di invio entro il 1 gennaio dei bilanci tecnici ha acceso i motori della riforma in molte casse per garantire prospettive più solide ai conti, ma gli interventi, spesso già all'esame dei ministeri vigilanti, in genere non mettono in discussione il meccanismo di calcolo più generoso, il retributivo, che lega gli assegni agli ultimi redditi. Secondo i conti appena trasmessi al Ministero del Welfare, i consulenti del lavoro sono i primi a rischiare il rosso nel rapporto fra entrate e prestazioni, ma la riforma allungherebbe i tempi. Difficoltà temporanee per i giornalisti, solidi, farmacisti e dottori commercialisti. Al servizio è accompagnato un editoriale di Elsa Fornero, il rischio di ripetere l'Alitalia. Gli italiani oggi pagano i guasti di anni di gestione di Alitalia al di sopra delle possibilità. C'è qualche analogia con la situazione delle casse professionali? Si chiede Elsa Fornero. L'accostamento può sembrare provocatorio, ma la ripartizione e il metodo retributivo che ancora governano molte gestioni sono una miscela esplosiva che determina rischi di disavanzi strutturali. Questo scenario non è dietro l'angolo, ma non è neppure irrealistico. Andrebbe affrontato responsabilmente e per tempo. Vediamo poi, sempre dal Sole 24 Ore, le pagelle dei sindaci. Abbiamo visto prima i più amati dai loro concittadini sono Chiamparino a Torino, Tosi a Verona e Scopellitti a Reggio Calabria. Primato a 3 nella corsa al consenso dei politici locali, Chiamparino, Tosi e Scopellitti, sindaci di Torino, Verona e Reggio Calabria, ottengono i livelli di favore più alti, incassando il consenso di 3 cittadini su 4. Tra i governatori, Raffaele Lombardo, che da 8 mesi guida la Sicilia, soffia il primato a Roberto Formigoni. Crollo del PD, gradimento ai minimi termini per Rosa Russo Iervolino, Antonio Bassolino e i politici abruzzesi. Visto che ci avviciniamo alla chiusura della rassegna per oggi, volevo leggervi invece da Repubblica un pezzo abbastanza divertente su Oprah Winfrey, la star della TV americana. Il titolo del richiamo in prima pagina è «Oprah Winfrey, mi arrendo, le diete non servono». Il pezzo poi prosegue a pagina 26 e dice: sono tornata cicciona, le diete non servono. La star più famosa della televisione americana annuncia al pubblico la sua sconfitta contro il peso. Mi sento come una mucca, mi vergogno e vorrei scomparire, ha detto sulla copertina della sua rivista. Come è potuto succedere di nuovo? Ero convinta di aver imparato, sapevo tutto, pensavo di avercela fatta per sempre e invece un'altra volta non mi va più bene niente, non c'è più un vestito in cui riesca ad entrare. E con questo ci salutiamo, ci risentiamo domani mattina. Un saluto a tutti da Marina Macelloni.